si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up, Uptown funk you up, 'cause Uptown funk don't give it to you, 'cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti ascoltatori, quando sono le 8 e 33 minuti inizia una nuova puntata di Si Può Fare. Buongiorno da Alessio Maurizi. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Milano Monterosa, lo dico io oggi perché Carlo non c'è, non poteva essere con noi perché ha un impegno personale, un matrimonio, vai, si può anche fare ogni tanto. E allora, Milano Monterosa, sole, oggi sole, anche se qualche goccia all'orizzonte in qualche regione si annuncia nelle prossime ore, però cominciamo bene. E allora cominciamolo questo viaggio, il viaggio della domenica di Si Può Fare, è un viaggio tra tutte le notizie della settimana, facciamo un ripassone tra notizie belle e brutte e poi come sempre cerchiamo un personaggio, qualcuno che abbia una notizia legata a quello che è accaduto negli ultimi 7 giorni. Ci sono tante cose che sono successe naturalmente e allora non sempre cerchiamo notizie di primo piano, non sempre cerchiamo personaggi minori, così ho fatto un po' di ho sviato un po' in tutte le direzioni. Il primo indizio che vi vado a dare per aggiudicarsi i biglietti e il catalogo della mostra di Miro allo splendido MUDEC di Milano, il primo indizio che vi vado a dare, ascoltatori, è questo: il nostro personaggio della settimana è un vincitore, quindi aguzzate l'ingegno. 800 24 00 24. Da Londra è arrivato uno schiaffone ai Napolitano, ai Prodi, ai Monti, ai Renzi, a quelli per cui l'Europa è cosa nostra, gli italiani non si impiccino. Quindi A, noi riproveremo fuori dal Parlamento a raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta anche agli italiani di votare. Il popolo britannico nella giornata di ieri ha scelto, noi rispettiamo questa decisione, ora si volta pagina. È un giorno senza precedenti, un giorno non facile, ma l'Europa ha dimostrato nel corso della sua storia di essere più forte di ogni e qualsiasi difficoltà. E sono qui per dire che l'Italia farà la sua parte nel percorso che oggi si apre. And I've spoken to Her Majesty the Queen this morning to advise her of the steps that I'm taking. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU. E non potevamo non partire anche noi dalla Brexit. E queste parole, le ultime che avete sentito in inglese, erano le parole dell'ex premier, a questo punto il premier Cameron dimissionario, che ha detto la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea sotto un altro premier perché io mi dimetto. Cameron che ha scommesso su questo voto e lo ha perso questa scommessa e quindi conseguentemente si è dimesso. Vabbè, insomma, che dire, cosa aggiungere? Si può fare il programma che guarda avanti, il programma che cerca nel fine settimana di riportarvi sul binario dell'ottimismo, se possibile, quando possibile. E allora ci sono degli spunti in prospettiva. Beh, intanto ha preso la parola il popolo democraticamente ha deciso, il popolo inglese, di lasciare l'Unione Europea. Adesso si vuole accelerare questo processo, almeno da parte dell'Europa, perché si dice, beh, allora se ve ne volete andare, andatene. Ma insomma, si è aperto un dibattito democratico importante per per un'Europa che, diciamolo, anche ai più convinti europeisti, così com'è, non piace, non funziona. E allora gli inglesi hanno preso la parola. Poi ci sono le turbulenze dei mercati, le borse che sono cadute, le ripercussioni economiche, cose che vanno aggiustate, vanno viste, cose che riguardano, insomma, la politica e l'economia, e staremo a vedere. Beh, insomma, l'altro elemento positivo, l'altro si può fare è questo: si può a questo punto migliorare l'Europa. Quale occasione migliore per chi rimane in Europa, per il continente, mettiamola così, rispetto all'isola inglese? Quello di riformarsi adesso, ora o mai più. Adesso vi faccio sentire anche un video virale che è stato prodotto da Casa Surace. Sono dei comici, dei videomaker che hanno immaginato un dialogo tra un ragazzo del sud e del sud Italia e gli inglesi che hanno detto addio all'Europa. Sentiamoli. Cioè, veramente siete usciti dall'Europa così bello e buono? Allora, scusate amici inglesi, a nome di tutto il sud avrei un paio di domande da porvi. Punto 1, la questione del tempo. Prendiamo per esempio il caso di zio Tonino che ti chiama dall'America per sapere come sta. La prima domanda è: com'è il tempo là? Finché stavi nell'Unione Europea te la potevi giocare, no? Sì, vabbè, qua piove, però giù c'è il sole, della brezza marina. Cioè, adesso non ci avete più scusanti. Se vi chiamano e vi chiedono che tempo fa, puoi rispondere solo che piove. Ah, poi per esempio la questione più importante, la questione del cibo. Finché eravamo tutti nell'Unione Europea si mandavano i pacchi da giù col provolone, il salame, taralli. Adesso che fa? Ci mettete la sovrattassa e il provolone di zio Tonino vi va a costare come un tartufo bianco. Poi ragazzi, una cosa importantissima: ma di tutta questa storia, ma nonna Elisabetta ne sa qualcosa? Vabbè ragazzi, io ho ancora le lacrime agli occhi, l'ho sentito già diverse volte. Cosa ci volete fare? Questo è l'Europa. Questo è l'Europa e lo sarà anche con la Brexit. 800 24 00 24. Chiudo, vi voglio far sentire anche un Chiellini, così ci agganciamo anche agli europei. Domani è il grande momento dell'Italia. Un Chiellini europeista, ma che ragiona da statista, da politico. Questo, secondo me, dopo, quando finisce la carriera da calciatore, si candida. Il dispiacere è che si è fatta tanta fatica per creare un'aggregazione e questo voto credo sia poi il sintomo di un malcontento generale che si percepisce nel nostro Stato, ma che è così in tutta Europa. E purtroppo però credo che nel malcontento non bisogna votare la disgregazione, ma ancora di più sarebbe un motivo per aggregarsi e cercare una politica di unione per migliorare e uscire da questi problemi. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana, cari ascoltatori, è un vincitore il primo indizio che vi ho dato, quindi aguzzate la vostra mente, 800 24 00 24, chiamate se avete in mente un personaggio della settimana che è un vincitore, il primo che risponde correttamente, come sempre, ogni domenica mattina si porta a casa i biglietti del catalogo della splendida mostra di Miró al MUDEC di Milano. The Lazy Song di Bruno Mars. Vi ricordo che tutte le nostre canzoni, le scelte musicali, le playlist della puntata le trovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24 ogni lunedì mattina. E allora, ci sono cose che facciamo tutti i giorni, tipo parlare della Brexit, e ci sono cose che dovremmo fare tutti i giorni, tipo fare sport, fare movimento, stare in movimento. C'è un rapporto di Save the Children allarmante, questo è un non si può fare, questo di cui parliamo adesso, è un rapporto che riguarda lo stile di vita dei bambini italiani. Ne parliamo con Raffaella Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Direttore del programma Italia Europa di Save the Children, una delle più importanti onlus al mondo, direi, che si occupa naturalmente dei bambini, e in questo caso avete fatto un rapporto sullo stile di vita dei bambini. Sentiamo spesso parlare nei paesi sviluppati, nei paesi ricchi, tra cui l'Italia, anche di obesità infantile. Poi esce fuori un rapporto come il vostro che dice che un minore su 5 non svolge attività motorie nel tempo libero, mai praticamente. È una cosa grave. Come... È una cosa grave. Sentivo prima, parlavate dell'Europa, e siamo il paese europeo dove i bambini sono i più sedentari in tutte le fasce di età. Quindi sia bambini che ragazzi, e stupisce abbastanza sia il dato dell'obesità sia quello della sedentarietà in un paese come l'Italia, che tutto sommato è favorito sia da un punto di vista climatico, poi siamo noi i padri della dieta mediterranea, quindi purtroppo invece quello che è emerso è un quadro veramente molto critico e preoccupante. Quindi se guardiamo ai bambini, che sono la generazione, cioè sono il futuro, quindi saranno gli adulti del futuro, tra qualche anno non saremo più il paese dove si vive bene, dove si sta bene, dove si mangia bene, la dieta mediterranea, eccetera, eccetera, con anche i bei fisici scolpiti in spiaggia l'estate, ammirati magari dai turisti stranieri. È questo che potrebbe succedere in prospettiva? Sì, può succedere anche che appunto i bambini vivano alla fine un'infanzia, un'adolescenza un po' chiusi in trappola dentro le loro case, e questo ha degli effetti anche sul piano educativo alla fine negativi, no? Perché poi fare sport, fare movimento significa anche stare con i coetanei, avere relazioni con gli altri. Quello che appunto è venuto fuori da questa indagine nazionale, che quindi ha riguardato tutto il paese tra i 6 e i 16 anni di età, è che per esempio il 63% dei bambini e dei ragazzi cammina al massimo mezz'ora al giorno, non di più. La gran parte viene accompagnata in macchina anche per andare a scuola. E perché succede tutto questo? Poi se andiamo a vedere i sogni dei bambini, invece il primo è proprio quello di avere uno spazio per giocare sotto casa, cioè poter andare in bicicletta, skateboard, con i pattini, poter avere uno spazio verde con gli alberi e le panchine. Insomma, queste aspirazioni ci sono. Certo, anche le nostre città non aiutano, perché c'è anche un problema. Molti genitori, abbiamo intervistato sia i ragazzi sia i loro genitori, molti genitori lamentano ad esempio il costo degli impianti sportivi troppo elevato, certo, o il fatto che magari nel proprio quartiere, se c'è uno spazio verde, in condizioni non di sicurezza, non di pulizia, quindi non è utilizzabile. Quindi in sostanza veramente chiudiamo delle opportunità che invece per i bambini e i ragazzi sono indispensabili per la loro crescita. Io adesso le chiedo una piccola pausa perché abbiamo le informazioni sul traffico, le anticipo la domanda perché il vostro rapporto è ampio, ci sono ancora cose da dire e adesso ce le dirà. In sostanza quello che lei ci sta dicendo è che una delle motivazioni principali è la mancanza di spazi e di accessibilità, di posti dove far sport. Però le voglio chiedere, è solo questo che può causare la sedentarietà, l'eccessiva sedentarietà, oppure può essere anche una malintesa forma, un'altra faccia di quella famosa iperprotezione dei bambini, non fare quello, non fare l'altro, non uscire, non andare agli allenamenti perché fa freddo, eccetera eccetera, perché questo potrebbe essere un tarlo che si annida nella mente di ognuno di noi, in particolare dei genitori. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Con questa The Lazy Song di Bruno Mars siamo partiti questa mattina dalla notizia sul rapporto di Save the Children sullo stile di vita dei bambini in Italia. Uno su 5 non svolge attività motorie nel tempo libero, 1 su 10 non le pratica regolarmente nemmeno a scuola. Molto spesso è per mancanza di spazi, strutture accessibili, parchi nel proprio quartiere o anche attività sportive a basso costo per chi per tutte le tasche. Però la domanda che io le stavo facendo, Raffaella Milano, è questo: non è che io tante volte sento dire nelle case di amici, di persone che conosco, ma non farlo stancare, non fargli fare questo che non lo sa fare, rivolto ai bambini, quasi un'altra faccia di questa super protezione di cui si è parlato molto nei confronti dei bambini, che porta a non farli aiutare a casa, nei lavori di casa, a non farli stare in movimento, a metterli davanti al televisore, così stanno belli tranquilli e non danno fastidio a nessuno. Ma sì, penso anch'io che ci sia una componente di questo genere, tant'è che noi per esempio, che poi interveniamo su questi temi anche nelle aree più periferiche del paese, abbiamo un programma di intervento proprio con il coinvolgimento dei genitori, dei docenti, dei nonni. Abbiamo visto quanto si può cambiare poi questo stile di vita, coinvolgendo ed educando, diciamo, in qualche modo anche gli stessi genitori. Quello che emerge dalla nostra ricerca è che i comportamenti dei genitori poi hanno un valore fondamentale, ma insomma non ci voleva una ricerca per capirlo. Anche per l'esempio, anche per quanto riguarda l'esempio. Per esempio, quindi se è normale, che ne so, cenare davanti al televisore, certo, oppure se per è l'adulto normale, è normale anche per il bambino, poi è evidente. Quindi anche il tempo passato insieme, i genitori italiani non passano tantissimo tempo con i bambini, soprattutto nei giorni feriali, e questo è pure comprensibile, però se questo tempo non viene usato per esempio per giocare insieme, una cosa che invece ai bambini è una tra i principali desideri, è proprio quello di giocare con i genitori e anche muoversi all'aria aperta con i propri genitori, è chiaro che questi comportamenti passano proprio immediatamente, vengono assorbiti. Posso dare un piccolo contributo, posso raccontare questo esempio. Io ho imparato questo trucco con le mie due bambine, una che ha quasi 5 anni, una che ha 7 mesi, ma insomma è piccolina, ma con la grande funziona. Quando arrivi a casa e ti chiede un coinvolgimento, cioè bisogna dedicare, magari sei stanco perché non hai voglia, perché hai tante cose per la testa, invece bisogna dire ok, aspetta, stacchiamo un attimo, mi dedico per mezz'ora subito a lei, la porto fuori, facciamo qualcosa, e così soddisfo il suo bisogno, dopo posso anche lasciarla un po' andare. E questo è un piccolo trucco che ho imparato, e così mi piaceva di condividere con gli ascoltatori. Senta, possiamo dare come messaggio che la fatica fa bene, che non è una cosa negativa, e che quindi iscrivere i bambini a delle attività sportive, se possibile, quando ci sono, eccetera, farli fare anche l'allenamento di calcio sotto la pioggia fa bene. Ma sì, assolutamente, fa bene, magari se possibile, quando possibile, andare a fare quest'ora di sport non prendendo la macchina e non prendendo poi l'ascensore quando si torna a casa, no? Cioè, quindi fare anche in modo che quell'attività motoria, sportiva che viene realizzata si accompagna al fatto di usare le proprie abilità, di mettersi anche un po' alla prova. Sono tutte cose che ai bambini fanno bene. Poi lo sport può essere strutturato, può essere la palestra, ma può essere anche il gioco libero, da questo punto di vista. L'importante è proprio il fatto di scoprire le proprie abilità e piano piano anche educarsi all'uso del proprio corpo. E poi ricordiamo, visto che ci sono tanti sindaci appena eletti che stanno cominciando il loro mandato in tante città italiane, ne abbiamo parlato molto negli ultimi giorni, che è necessario, per far sì che questo accada, ed è il desiderio dei bambini, così come emerge dal vostro rapporto, che ci siano piste ciclabili, spazi dove poter andare sui pattini o con lo skateboard, parchi giochi immersi nel verde con alberi, panchine e prati. Insomma, quando possibile bisogna cercare di realizzare delle strutture così. Assolutamente, sarebbe veramente una cosa che in ogni quartiere è possibile fare. Noi, come Save the Children, con altre realtà, in questo progetto Pronti Partenza e Via, abbiamo anche proprio riqualificato delle aree, piccole aree di gioco, di zone periferiche, e insomma questo fa la differenza, veramente anche gli spazi hanno un ruolo educativo importante per un bambino. E allora grazie Raffaella Milano, buona domenica, grazie per essere stata con noi di Save the Children. E questa era la notizia. Adesso ascoltatori all'800 24 00 24, i vostri commenti su questa questione della sedentarietà dei bambini oggi in Italia, ma anche alla ricerca del personaggio della settimana. Rossella da Prato, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Rossella? Niente, volevo provare a indovinare il personaggio. Mm-hmm. Chi è secondo te, Rosella? Ma secondo me può essere Alex Fazer, il marciatore. Mm-hmm. Perché? Perché con l'augurio che sia davvero torni a essere un grande vincitore. con l'augurio che torni a essere un migliore, che questa accusa di doping sia in qualche modo sbagliata, infondata, che non sia vera, immagino, sì, anche. Sì. Lui questa non settimana... Lei di cosa è convinta? Che sia vera l'accusa? No, che non sia vera. Che non sia vera. L'ha convinta in qualche modo la conferenza stampa che hanno fatto lui e il suo allenatore Donati in settimana, che è questa poi la notizia che riguarda Schwarzer. La conferenza stampa in cui si sono difesi, quasi parlando di un complotto nei loro confronti. Insomma, purtroppo uno vede le ombre dappertutto, però insomma non posso credere che abbia fatto una cosa... abbia rifatto questa cosa. La prima. Lo speriamo tutti, assolutamente. Speriamo. Rosella, grazie intanto, ma non era Schwarzer il personaggio della settimana a cui avevamo pensato, e il primo indizio che avevo detto era è un vincitore, sicuramente Schwarzer è un vincitore, il suo allenatore Donati ha detto è un fenomeno Schwarzer, però su di lui pende questa accusa, bisognerà chiarire assolutamente che cosa è accaduto. Giuseppe da Bari, buongiorno. Pronto, buongiorno, prego. Benvenuto Giuseppe, su cosa voleva intervenire? Sì. Dica. No, dica lei, su cosa voleva intervenire Antonio Giuseppe? Antonio Conte, l'allenatore della nazionale di calcio. Come personaggio della settimana, perché? Perché è un vincitore, perché da giocatore è un gran l'ultima giocatore. Partita l'abbiamo persa, adesso non vorrei fare... Vabbè, ma non è importante. Non macchia la carriera di Conte, vabbè, è un grande allenatore, esatto. Sicuramente. E la notizia di questa settimana, l'Italia è impegnata agli europei naturalmente di Francia, Giuseppe, non era Conte il vincitore. Bene, grazie lo stesso, grazie. No, grazie a lei. Giovanni da Pistoia, chiudiamo, vai Giovanni. Prego. Buongiorno, sì. Vorrei ricordare che sono stato una volta il vincitore. Ah sì? Sì. Però ma non prendi il premio, perché purtroppo anche questa volta se mi spetterà, essendo a Milano io di Pistoia, insomma è un po' lunga purtroppo andare a vedere la mostra di Milò. Comunque il vincitore è Renzi. Perché? Renzi, perché dopo il suo discorso d'aria fritta che ha fatto... E lì è stata tagliata, ha detto ho vinto io. Purtroppo la gente intorno ha detto come mai, che vuol dire questo? Dobbiamo chiudere Giovanni. Sì, ho vinto io perché sono durato più io che l'inglese. Ma non era Renzi il personaggio, anche se meriterebbe qualche commento alla sua telefonata. 800 24 00 24 è un altro, il vincitore che andiamo cercando. Ci risentiamo dopo il giornale RAI. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stanno chiedendo del dibattito sindaco o sindaca, che è sicuramente una questione fondamentale per Roma. Permettetemi di scherzare. In realtà si è già espressa l'Accademia della Crusca dicendo che si potrà dire, si dovrà dire la sindaca. Non mi fa impazzire, ma se così dicono io mi adeguo, però chiamatemi pure Virginia. Chiamatemi Virginia, bellissimo. Che non si dica però che a Radio 24 si può fare, parliamo dei sindaci del Movimento 5 Stelle solo per questioni marginali, oppure che parliamo della Raggi, che siccome è donna, solo per questioni che riguardano l'aspetto di genere. Che non si dica, perché non è vero, abbiamo detto più volte, belle le proposte sulla funivia, sul baratto, su tante cose che vengono al Movimento 5 Stelle, di cui tante volte, senza pregiudizi politici, abbiamo parlato, si può fare il programma delle notizie costruttive, e quindi ben vengano le proposte dei 5 Stelle. Però qua di questa cosa sindaco-sindaca la gente parla, si discute, perché in effetti ci si domanda, è giusto dire ministra, ministro, sindaca, sindachessa, presidentessa, eccetera. La risposta della Raggi l'avete appena sentita. A proposito della giunta che si annuncia a Roma, giunta capitolina, c'è stato subito un caso, perché l'assessore in pectore allo sport, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, si è comportato forse come un allucinato VIP qualsiasi, quando la giornalista della Sette è andata a cercarlo nella sua casa, nella sua tenuta in credo provincia di Viterbo, dalle parti di Nepi, è entrata in una strada privata, la strada di casa sua, lui si è messo di mezzo col suo gippone, non la faceva più uscire, gli ha preso la telecamera, gliel'ha strappata proprio come un Fabrizio Corona qualsiasi. E allora tutti a dire, ma come, Andrea Lo Cicero, il Movimento 5 Stelle, lui, lo sportivo, dalla faccia pulita, eccetera eccetera. Poi forse è stato anche un po' montato mediaticamente questo caso. Sentiamo lo stesso Lo Cicero che smentisce di avere in qualche modo aggredito la giornalista della Sette. Addirittura sto per menare, guardate, vedi, io sto per menare questa persona, guarda, ha detto che si chiude in macchina, sto per menare, guarda com'è aggressivo Lo Cicero, guardate, Lo Cicero è aggressivo, là c'è l'operatore e Lo Cicero non fa niente, ed è aggressivo. Lei si è chiusa in macchina, dicendo ai carabinieri che sta succedendo tutto ciò, bene. 10 anni fa i tecnici migliori dell'aeronautica mondiale hanno detto che l'aereo di Picard non avrebbe mai potuto, l'aereo Pulsar fotovoltaico, fare il giro del mondo, e l'ha fatto. 10 anni fa i tecnici migliori della politica italiana hanno ribadito che noi non avremmo mai fatto nulla nella politica italiana. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. Gli aerei impossibili del Movimento 5 Stelle è decollato e adesso cambieremo la quota. E questa frase di Grillo, chissà quante volte la risentiremo, una frase in qualche modo storica, detta all'indomani del successo del Movimento 5 Stelle a Roma e a Torino. E allora andiamo con gli ascoltatori all'800 24 00 24, per commentare tutto quello che avete sentito, se volete, per giocare con noi alla ricerca del personaggio della settimana. C'è Simone che chiama da Roma, abbiamo detto è un vincitore. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno. Prego, su cosa volevi intervenire? Sì, io volevo intervenire appunto sul personaggio del giorno. Secondo me è il leader degli indipendentisti in Inghilterra, Nigel Farage, appunto per il referendum. Sì, che... sulla Brexit, naturalmente. Esatto, sulla Brexit. Beh, diavolo, se c'è un vincitore questa settimana è proprio Farage. Sì. Caro Simone, che dirti? Ti devo dire che non hai indovinato, perché in effetti non era lui a cui avevamo pensato. Il personaggio è abbastanza diverso. Era forse troppo facile, però era una risposta che in qualche modo andava data, perché qualche volta invece andiamo proprio al centro delle notizie principali. Però qua era troppo evidente. Fabrizio da Modena, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, su cosa volevo intervenire? Per il concorso. Sì, sì. Secondo me le Zeppelin, perché hanno vinto la causa per Stairway to Heaven. La causa che gli era stata fatta, sì, per un'ipotesi di plagio da parte di un altro gruppo. Degli Spirit. Esatto, per una canzone che aveva delle similitudini con Stairway to Heaven. E dopo quanti anni hanno vinto questa causa? Non mi ricordo. Credo che sia passato un po' di tempo. No, la canzone sicuramente è una canzone che è degli anni 70. È a quasi 40 anni. Meraviglioso, sì. Stairway to Heaven. Fabrizio, non sono loro il personaggio della settimana. Grazie però per averci ricordato questa notizia. Tra l'altro, appunto, non sempre il personaggio è una persona o una persona umana, quindi era giusto anche dire il nome del gruppo. Andiamo con Francesca che chiama da Catania. Buongiorno Francesco. Buongiorno, io sono Francesco, chiamo da Catania. Niente, riguardo al personaggio, penso che sia Ronaldo, perché da solo ha vinto, ha battuto la Croazia. Ma no, questo è marginale, sì, a confronto a quello che volevo dire. Volevo intervenire. No, però le dico che non è Ronaldo il personaggio, non è lui. No, in verità intervenivo a proposito, sì, dell'obesità dei bambini. Sì. Non so, in Italia forse siamo un po' ottusi, perché se guardiamo i programmi ministeriali dell'educazione dell'infanzia, quindi la scuola elementare, sì, c'è solo un'ora settimanale di attività motoria. Poco, troppo poco, è verissimo. Di inglese settimanale. No, beh, cioè, adesso non mi faccia il confronto con l'inglese, perché l'inglese è importante. Lo faccio apposta, lo faccio apposta. Va bene, sì, sì, sì. Scusa, mi pare un assurdo, no? Che una maestra, oltretutto maestra di una certa età, sì, la media, sì, che neanche quell'ora fanno fare a scuola. No, un'ora è troppo poco, è vero. Poi tante volte finisce che si perdono 10 minuti per arrivare in palestra, per cambiarsi, poi la palestra non c'è, non è agibile, fuori piove, non si può fare, si fa un giretto del campo e si torna in classe. È una follia, un'ora è veramente poco. Quindi lei dice, qui il problema è proprio nei piani educativi ministeriali. Forse ha ragione, adesso non conosco i piani formativi delle scuole al momento. Adesso in Italia, per quanto riguarda l'educazione fisica, ci chiameranno una valanga di insegnanti che diranno no, non è così, perché quando si tocca la scuola giustamente si toccano anche queste sensibilità. Se volete chiamate 800 24 00 24 per smentire che si faccia solo un'ora alla settimana di educazione fisica nelle scuole, che in effetti è una nullità. Dennis da Belluno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ah, secondo me è Marcello Lippi il personaggio della settimana. Per quale motivo Marcello Lippi? Ha vinto tanti scudetti, ha vinto coppe e poi ha vinto un mondiale. Va bene, però noi sa che cerchiamo sempre una notizia della settimana, cioè ci deve essere qualcosa che è accaduto negli ultimi 7 giorni. La settimana è che probabilmente non ritorna al mondiale per problemi che ci ha tirato fuori. Sì, è venuta fuori la notizia che Marcello Lippi non sarà direttore tecnico della nazionale, perché per la questione del conflitto di interessi col figlio che fa il procuratore, e quindi la notizia su Lippi c'è tutta la vita. È un vincitore, alla faccia se è un vincitore Lippi, abbiamo vinto i mondiali con lui, però non è lui il personaggio. Quindi grazie Dennis, a questo punto bisogna assolutamente dare un indizio, perché è un indizio, tenetevi forti, perché è un indizio che vi scioccherà, vi sconvolgerà, perché è un vincitore il nostro personaggio, ma è un vincitore alla rovescia, quindi bisogna rovesciare tutto quello che avete detto fino ad ora. Vincitore alla rovescia, cioè di una classifica rovesciata in qualche modo, quindi un vincitore in negativo. 800 24 00 24 Si può fare cronache da un paese migliore. On Top of the World degli Imagine Dragons. Vi ricordo che tutte le canzoni di Si Può Fare le ritrovate nella playlist pubblicata ogni lunedì sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Ci sono tutti i contenuti di ogni puntata. Vi ricordo anche che il secondo indizio del personaggio della settimana è questo: è un vincitore, abbiamo detto, ma di una classifica alla rovescia. 800 24 00 24. Sul tetto del mondo è andata una italiana, una grande italiana di cui siamo orgogliosi di essere sostenitori, amici, dei veri e propri fans scatenati, che ha vinto anche in questo caso una classifica particolare. Lei, forse alcuni ascoltatori se lo ricorderanno, l'abbiamo intervistata altre volte, è Daniela Ducato. Buongiorno Daniela. Buongiorno a tutti voi. Ogni volta che la presentiamo sempre con questo entusiasmo, però sei tu Daniela che con i risultati che ottieni con le tue attività, con le tue aziende, ci porti, ci tiri dietro in questo entusiasmo. Tu sei fondatrice di una azienda che si chiamava Edilana, che esiste ancora ma che poi è diventata Edizero, perché adesso poi spiegheremo come a catena un'idea originale ha sviluppato tante altre idee coinvolgendo tante persone in Sardegna. E recentemente, vado alla notizia, sei stata inserita tra le top 10, cioè tra le 10 eccellenze tecnologiche mondiali, ascoltatori, non stiamo scherzando, tenetevi forte, dal World Economic Forum a Nuova Delhi. Ora, non è che capiti tutti i giorni una roba del genere. Daniela. Ma sì, come è stato detto, il lavoro è un lavoro di squadra, e questo penso che sia la parola vincente, cioè mettere insieme persone molto diverse, quindi il mondo della ricerca, il mondo delle imprese, il mondo dell'industria, il mondo degli artigiani, ma anche degli allevatori, degli agricoltori. In questa multidisciplinarietà che si può fare innovazione e che si può fare anche tecnologia industriale. Quasi hai risposto alla seconda domanda che ti volevo fare, che era qual è il vostro segreto, naturalmente. Però fammi restare un attimo su questo, perdonami, anche proprio piacere, questa goduria, insomma, di aver avuto questa cosa. Te l'aspettavi? Com'è arrivata in attesa il fatto che World Economic Forum di Nuova Delhi ci sono delle riunioni annuali e spesso vengono fatte queste classifiche? Non è che stiamo dicendo che ti hanno inserito nel pantheon mondiale dell'impresa di tutti i tempi, però un riconoscimento così, ripeto, non capita spesso. Come lo avete accolta questa notizia? Nella giuria, che è una giuria internazionale dove ci sono le più prestigiose università del mondo e anche molti economisti, scienziati, ricercatori ne fanno parte, in realtà studiano tutto quello che avviene nel mondo, sì. Quindi tutto quello che è innovazione, che è tecnologia. Chiaramente oggi sappiamo che la sostenibilità in tutta questa innovazione gioca un ruolo importante, e così, andando a guardare in tutti i casi del mondo, hanno visto che qui c'erano delle innovazioni importanti. Ad esempio la prima realtà al mondo che ha utilizzato oltre 100 diversi scarti rinnovabili per realizzare i suoi prodotti. Nessuno al mondo aveva fatto questo. Perché questo è il fuoco, proprio esempio, il focus di quello che fate voi, gli scarti, cioè quello che tu invece chiami le eccedenze, no? Cioè recuperare. Quindi voi oltre 100 tipi di scarti diversi oltre recuperate. Oltre 100 tipi di scarti che poi appunto diventano biomateriali, e questa era un qualcosa di unico al mondo, o comunque di primo al mondo mai fatto, e che poi ovviamente sono interessanti questi scambi, perché poi ci si, tra virgolette, contamina e si capisce che un mondo senza petrolchimica si può fare. E vieni da noi, cara Daniela. Senti, perché adesso gli ascoltatori, qualcuno dirà: ma di cosa stiamo parlando? Sostenibilità, biomateriali, l'economia circolare, eccetera eccetera. È tutto molto più semplice di così, è molto concreto, e possiamo, a me piace molto come la raccontò Ermete Realacci nel suo libro L'inizio della tua storia, che è anche molto poetica. Tutto nasce dalla lana di pecora e dagli uccellini, così si capisce anche cosa hai fatto concretamente. Sì, noi viviamo in Sardegna, quindi la regione italiana con il più alto numero di pecore, abbiamo oltre il 65% di produzione ovina, e quindi ovviamente tante pecore vuol dire anche tanta materia prima, cioè lana di pecora. Una lana che non trova, diciamo, un grande utilizzo per quanto riguarda l'abbigliamento e il vestiario, trova un utilizzo nel filato, nell'industria tessile, ma anche l'industria tessile una parte non la utilizza, e quindi in questa cernita quella parte diventava rifiuto. Tra l'altro rifiuto speciale, perché ricordo che appunto la lana brucia con difficoltà, quindi ovviamente è una diventava una problematica. Non era facile sbarazzarsi di questo per la tessile. E quindi un problema ambientale, un problema economico. E grazie a tante competenze, ed anche le competenze, la ricerca scientifica, l'industria, si sa, tecnologia fa anche rima con poesia, l'ispirazione che è venuta da bambini e bambine della mia comunità. Io abito a Guspini, che nell'osservare le architetture animali degli uccellini, quindi i nidi degli uccellini, mi hanno in qualche modo fatto notare come ci fosse un'architettura perfetta in quell'intreccio di terra, paglia e lana, cioè mondo minerali, animali e vegetali. Gli uccellini andavano a prendere questi scarti di lana che trovavano e li mettevano nel nido, sì, perché istintivamente lana, sapevano che era isolante. Isolante, grande efficientamento energetico delle, dei loro nidi, e tra l'altro un nido deve essere un'architettura perfetta, perché se c'è uno sbalzo termico ovviamente morirebbe il piccolo, la nuova vita, quindi devono essere veramente degli edifici naturali perfetti. Noi ci siamo ispirati, quindi abbiamo studiato tantissime tipologie ovviamente di architettura animale, fino a farci, diciamo, ispirare dall'architettura animale per fare i nostri macchinari industriali che imitano proprio il becco e il petto, che sono i movimenti che fanno ad esempio molti volatili per costruire il loro nido. E noi invece costruiamo i materiali isolanti in pura lana di pecora, senza aggiungere fibre petrolchimiche, 100% pura lana di pecora. Faccio un salto in avanti e arriviamo a che cosa? A dei mattoni, a materiale per l'edilizia, allora, anche a delle pitture. Isolanti per l'edilizia, quindi per l'efficientamento energetico, e poi ancora tutto il mondo delle pitture, dei rivestimenti, dei risanamenti, ma ancora poi l'agricoltura con i pacciamanti per l'agricoltura, e il mondo delle bonifiche, che è appunto la difesa dell'erosione dunale, costiera, montana. Le barche, in modo tutto, diciamo, tra virgolette, senza utilizzo di petrolchimica, ma non solo per un fatto di ecologicità, ma anche di prestazione, perché sono materiali che hanno alte prestazioni e poi una cosa importante, finito di vivere, ritorneranno ad essere terra feconda, quindi non creare problemi di smaltimento. È il massimo, questo uno lo capisce chiunque, che questo è il massimo a cui si può aspirare, ed è il motivo per cui su questo settore dell'economia circolare, diamogli questo nome, un nome importante, si stanno posizionando anche tutte le grandi, veramente le grandi multinazionali. Ed ecco perché poi si arriva da una storia apparentemente piccola come quella di Daniela Ducato in Sardegna a riconoscimenti così grandi come il World Economic Forum. Ma voi eravate piccoli, perché adesso la rete è cresciuta. Quante aziende, quante persone complessivamente sono coinvolte in questa rete di EDIZERO? Adesso io un numero proprio preciso non lo so dire, sicuramente più di 100 persone, perché se pensiamo che in questa rete ci sono persone molto diverse, io ci metterei dentro anche, lo vorrei citare, tutto il mondo della ricerca, l'ultima innovazione nata, che sono appunto la lana mangia petrolio, sì. Quindi tutto i salsicciotti che si mettono attorno alle barche per evitare che sbattano, che... e che nello stesso tempo, già che ci sono, hanno un'efficienza, se lo mangiano, lo biodegradano, esatto, nell'assorbire il petrolio, ci avevi spiegato l'altra volta, molto più alta di tanti altri prodotti, e questo è solo l'ultimo prodotto che avete lanciato pochi giorni fa. Ma è nato da una collaborazione molto importante con ad esempio il mondo della ricerca, in particolar modo dell'Università di Cagliari, quindi diciamo che sono reti in continua espansione, mm-hmm. Perché vedono appunto mondi multidisciplinari che si collaborano. Intrecciano e collaborano. Voglio farti questa domanda, che è un classico di cui si parla sempre nei talk show politici, ma è davvero così difficile fare impresa in Italia? Lo chiedo a te, che hai realizzato tutto quello di cui ci stavi parlando. Probabilmente non è stato tutto così facile come è adesso raccontarlo. Delle difficoltà ci saranno state, però ci siete riusciti. È difficile oggi in Italia? È un ambiente ostile all'impresa, all'Italia, o no? Ma allora, nel mio settore ci sono molte ostilità, in quello dell'edilizia. Ci sono i benefici fiscali, quindi soldi pubblici per appunto l'efficientamento energetico, fatto ancora con finanziando materiali petrolchimici. In altre nazioni questo non avviene, i soldi pubblici, il finanziamento, quindi il contributo, avviene alle persone, ai cittadini che efficientano i loro edifici, ma avviene se si utilizzano materiali compatibili. Quindi io credo che in Italia dobbiamo soprattutto lavorare su una, diciamo, evoluzione, la nostra politica da questo punto di vista è ancora un tantino indietro, ancora troppo si favorisce il mondo petrolchimico E quindi io spero, chiaramente, mi piace il mio anche, augurio sì, dal punto di vista linguistico, anche le scelte che tu fai, questa evoluzione che tu evochi, una parola quasi delicata, neutra, non è una parola negativa nei confronti delle limitazioni, delle difficoltà che ci sono e che pure tu hai dovuto affrontare per quanto riguarda far nascere un'impresa, però tu dici evolviamoci, andiamo, guardiamo avanti e soprattutto secondo me l'Italia sì. Ha una, diciamo, dei punti eccellenti, cioè noi abbiamo un'agricoltura straordinaria in Italia e allora questo vuol dire tanta biodiversità, tanta agricoltura vuol dire anche tanti scarti, tanti, tra virgolette, rifiuti rinnovabili e aziende che in Italia, perché non c'è solo la nostra, ci sono aziende che in Italia stanno veramente raccontando. Beh, per esempio nel campo della bioplastica, partendo dalle eccedenze della produzione agricola, si stanno facendo cose mirabolanti, per esempio mirabolanti di cui siamo primi al mondo. Brava e dobbiamo dircelo ogni tanto. E dobbiamo dircelo. Voglio farti chiaramente, siamo tante aziende italiane primi al mondo nel settore. Allora perché invece non tradurre questa eccellenza italiana in un'eccellenza di vera sostenibilità, di vero green e non di greenwashing, insomma. Noi possiamo farlo, abbiamo le intelligenze, le eccellenze e possiamo farlo. Per farlo, e lo stiamo già in qualche modo facendo. Voglio farti una domanda che ci porta totalmente da un'altra parte. Se ti va di rispondere, ma la domanda è molto semplice. Sei sarda, sei isolana come gli inglesi che hanno appena votato la Brexit e che quindi in questo momento stanno aumentando il loro grado di isolamento. C'è un messaggio nella bottiglia che vuoi mandare al popolo inglese in questo momento? A noi dell'isolamento abbiamo fatto un business, abbiamo creato gli isolanti. Credo che la parola isolamento sia una parola bella, usata bene, ma è bello essere, come si dice, vivere in un'isola, ma non vivere isolati. Quindi credo che sia importante, secondo me, vivere in una dimensione di accoglienza, di scambio, perché solamente nello scambio, nell'accoglienza di tutto ciò che è anche molto diverso da noi, che possiamo evolverci. Ancora una volta, evoluzione. Grazie Daniela Ducato, grazie ancora. Grazie a voi. A presto, buona domenica. Insomma, tanti elogi, ma cosa dobbiamo fare con una donna come questa che ha avuto tanti premi, tanti riconoscimenti, è partita da zero, ha fondato un'azienda, ne ha fondate delle altre, è stata inserita alla World Economic Forum tra le 10 eccellenze tecnologiche mondiali, l'unica italiana. Insomma, è brava, bisogna solo sperare che ce ne siano tante altre così e che questa azienda di zero cresca ancora. 800 24 00 24, non ci distraiamo però da tutto il resto, ascoltatori, tra poco torniamo a voi. Sentirsi come papà senza santi da pregare si può fare ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, su WhatsApp, di nuovo buongiorno Alessio Maurizio, cari ascoltatori, un ascoltatore Maurizio scrive: ho giusto litigato ieri con un condomino nel mio palazzo perché due bambini di 8 anni giocavano sul prato, che non c'è, con un pallone di spugna, punto esclamativo. Immagino che Maurizio litigasse, credo, per difendere il diritto di questi bambini a giocare con un pallone di spugna in un prato che non c'è. Ora bisogna vedere se il prato non c'è perché ci giocano sopra i bambini e allora gli amanti del verde potrebbero lamentarsi di questo. Come vedete però è un tema di discussione, perché è un classico, no, nei condomini, anche nel mio condominio spesso ci sono regole, regolamenti, orari nei quali non si può fare, non si può giocare, non ci sono le lastrelliere per le biciclette, non si può giocare, ci sono i fiori, c'è il decoro e non ci deve essere nient'altro. Solo che così di decoro, secondo me, si muore letteralmente. Siamo partiti stamattina dalla notizia del rapporto di Save the Children sulla sedentarietà dei bambini italiani, perché non hanno spazi dove giocare e dove ci sono gli spazi spesso e volentieri non vengono utilizzati per varie ragioni. 800 24 00 24 se volete intervenire e raccontare l'esperienza nel vostro condominio, nel vostro quartiere, oppure se volete indovinare con noi il personaggio della settimana. Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego, Francesco. Io penso che il personaggio della settimana sia il primo ministro inglese Cameron, perché ha fatto proprio un autogol con intanto ha promosso lui il referendum. Secondo lei Francesco ha sbagliato a promuovere questo referendum? E cavolo si è sbagliato, conoscendo gli inglesi che sono sempre stati un tantino con la puzza sotto il naso, se sì. vogliamo, no? Sono sempre creduti un po' più degli altri, e certo che ha sbagliato. Lui era sicuro di perché è stato eletto a stragrande maggioranza, ma ha fatto un azzardo e ha sbagliato, va bene, ha fatto proprio sicuramente un autogol, è così, penso... ed è un vincitore però... negativo di questa settimana, però non è lui il personaggio a cui avevamo pensato, non è lui, era stato detto Nigel Farage nella prima parte del programma, quando il primo indizio che vi avevamo fornito era che era un vincitore. Adesso abbiamo detto attenzione, perché è un vincitore alla rovescia il personaggio che cerchiamo, ma non era Cameron. Francesco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Buongiorno, perfetto. Allora, secondo me il vincitore della settimana potrebbero essere i tifosi irlandesi, perché alla fine nella classifica del peggior tifo diciamo che si mettono all'ultimo posto. Chi è che ha stilato questa classifica nella quale gli irlandesi sono arrivati ultimi? Che poi si potrebbe discutere, perché di tifosi peggiori agli europei ne abbiamo visti parecchi, dai russi agli inglesi, invece gli irlandesi, perché? Chi l'ha detto? No, gli irlandesi sono i migliori secondo me. Ah, ecco, appunto. Però io ho detto che la classifica è alla rovescia, cioè qua il vincitore è alla rovescia. Ho capito. Questo era il secondo indizio, Francesco, te lo sei perso, mi dispiace, grazie per aver chiamato e per averci dato questa tua sollecitazione sul fatto che gli irlandesi, sì, è stato detto anche sui social, le foto, no? Che brindano nonostante tutto, sempre allegri e contenti, non fanno mai casino, tifosi irlandesi, bene, però non sono loro il personaggio che andiamo cercando. Non so se è il momento di dare un altro indizio, regia, aspettiamo un secondo, lo vogliamo dare? No, allora, vincitore alla rovescia, 800 24 00 24. Eclissi di periferia di Max Gazzè, perché è questo l'argomento della prossima intervista, cari ascoltatori. Tutti ne parlano, tutti le invocano, tutti dicono che bisogna modificare le periferie, bisogna migliorarle, per esempio quando ci sono le elezioni. Non c'è un candidato sindaco che non dica partiamo dalle periferie. Poi naturalmente il giorno dopo essere eletti se ne, possiamo dire una parola, se ne fottono delle periferie e fanno tutt'altro. È una storia antica, chissà perché è così, forse perché è troppo difficile modificare le periferie, migliorarle, sono nate storte, non lo so. C'è qualcuno che se ne sta occupando, è un progetto, si chiama Taking Care. Non sono sindaci, non sono politici, sono associazioni come Emergency, LUISP, Lega Ambiente, Libera e Live, e hanno messo in piedi un crowdfunding per le periferie, per migliorare le periferie. È con noi Raul Pantaleo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi Raul Pantaleo, che è socio di TAM Associati, è lo studio di architettura sostenibile che sta promuovendo Taking Care insieme a queste importanti associazioni. Di cosa si tratta, Raul?

In bocca al lupo e grazie intanto per essere stato con noi, Raul Pantaleo. Grazie mille, grazie a voi. Periferieinazione.it il sito, allora andate se volete dare una mano a questo progetto. Noi ci risentiamo dopo il traffico, ricordo che stiamo ancora cercando un personaggio della settimana, è un vincitore alla rovescia. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua ascoltatori, andiamo con i vostri interventi, aspetta se arrivo, sì, Chiara da Milano, buongiorno, benvenuta Chiara, su cosa volevi buongiorno, intervenire? Buongiorno, sì, mi sente? Sì, forte e chiaro. Volevo rispondere, secondo me la Gran Bretagna, perché ha vinto il referendum, però sì, ha perso su tutti i fronti, insomma, perché ha perso l'Europa. Ha vinto al referendum, cioè non è che c'è una che c'era una vittoria, la vittoria del Leave. Sì, vinto nel senso in questo senso sì. Lei per esempio ha un'opinione, cioè, non ho capito, per lei quindi il lasciare l'Europa è una vittoria per la Gran Bretagna? È una perdita. Quindi lei dice classifica alla rovescia, la Gran Bretagna è una perdita perché perde l'Europa, però perde anche l'interno, cioè c'è una divisione anche all'interno, insomma. Benissimo, perdono tutti, però cara Chiara non era questo la risposta esatta, non era questo il personaggio che andavamo cercando, è giusto avere detto per esempio la Gran Bretagna perché non sempre sono personaggi umani, ma non era il tema Brexit, a questo punto della puntata possiamo dirlo, non era il tema Brexit attorno al quale ruota il nostro personaggio. Domenico da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io pensavo che il personaggio della settimana potesse essere, proprio perché il personaggio al contrario, Rudy Guédé. Per quale motivo? Ci ricordi la notizia che riguarda Rudy Guédé? Dunque, Rudy Guédé è in carcere per l'omicidio di Meredith Kercher, sì, e dopo 9 anni di detenzione ha avuto, fra virgolette, un premio per cui è potuto uscire per un certo periodo, quindi nonostante fosse, diciamo, un personaggio negativo, pensavo che potesse essere la notizia, in quanto appunto ha avuto il premio nonostante tutto. Bene, non era male questa risposta, Domenico. Sei andato in un solco interessante, non era però questo il personaggio al quale avevamo pensato. A dire la verità non ti sei neanche molto avvicinato, perché, vabbè, lo dico, non sempre, l'ho detto spesso, è un personaggio umano, ecco. Vincitore alla rovescia non è sempre un personaggio umano. Vi voglio aiutare. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, secondo me è Sweetie Rambo, il cagnolino più brutto del mondo. Perché? Qual è la notizia che riguarda questo cagnolino? Perché, niente, ha vinto un concorso, penso, negli Stati Uniti. Sì. Non so bene il paese, che è stato nominato il cane più brutto al mondo. Bravo Paolo! L'applauso sottolinea in maniera stentorea il fatto che ha indovinato. Allora, Sweepy Rambo, purtroppo per lui è il cane più brutto al mondo. Niente, ha vinto questo concorso di bruttezza, in effetti De Gustibus, ma non è diciamo l'immagine della bellezza, questo piccolo cagnolino. La domanda che ci potremmo semmai fare è: perché fare un concorso di bruttezza? Per quale motivo esporre questi poveri animali a questo record negativo della bruttezza? Noi in solidarietà con questo piccolo animale, quattro zampe, abbiamo deciso di farlo personaggio della settimana. Paolo, complimenti, ti porti a casa i 2 biglietti per la mostra di Miro al splendido MUDEC di Milano. Grazie, ciao. E allora, tutto si tiene, si può fare. Siamo partiti a inizio puntata dal fatto che i bambini fanno poca attività, poco sport in Italia, un rapporto di Save the Children, ed ecco a voi la risposta. Giocate a calcio ovunque potete, nelle strade, nelle piazze, sui giardini, sui prati, sì, rovinate i pratini, quelli tutti verdi, belli, giocate a calcio bambini, assolutamente da tutte le parti, senza alcuna remora. E allora, nelle tre settimane dei campionati europei di calcio, c'è chi ha pensato di organizzare degli altri europei di calcio abbastanza diversi da tanti punti di vista, e allora è con noi colui che ha pensato di organizzare questo torneo, Enrico Tamiazzo. Buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, Enrico Tamiazzo è un pubblicitario di Padova, vive a Milano in realtà, è fondatore di The Small Now, una onlus che di cosa si occupa? Cominciamo da qui. Avete iniziato tempo fa in Kenya. Sì, buongiorno. The Small Now è una onlus, appunto, che si occupa di promozione dello sport come strumento per l'inclusione sociale e per il diritto al gioco per tutti. Sì. Siamo nati l'anno scorso, siamo giovani, insieme al mio collega Michele Bianchi, dove appunto abbiamo iniziato dei progetti in Kenya, nelle baraccopoli. Cercando di creare delle accademie di calcio, detto così sembra una cosa chissà nobile, in che modo in realtà cercate semplicemente di dare una mano dove è possibile in contesti disagiati, di far giocare a palla i bambini, ho detto bene? Sì, esatto, precisamente. Poi arrivando anche ad altri obiettivi che possono essere dell'educazione, la sensibilizzazione, certo, e l'empowerment giovanile. Adesso in associazione, diciamo, con Altro Pallone, un'altra associazione milanese che nel 2010 aveva organizzato già gli altri mondiali in concomitanza con quelli del Sudafrica, avete pensato di allargare questa vostra iniziativa agli altri europei, gli europei di calcio, gli europei di Francia. Voi state cercando in questi giorni di far giocare a calcio chi, dove? Allora, in questi giorni siamo stati un po' in giro per l'Europa a portare la campagna altri europei. Siamo stati in Turchia, ad Ankara, dove abbiamo fatto una partita con dei non vedenti. Poi siamo stati a Budapest, dove abbiamo coinvolto dei giovani in uno scambio giovanile europeo, in una partita particolare. Siamo stati anche in Italia al Mondiale dei Migranti a Torino, a Milano con dei richiedenti asilo e Radio Popolare, e tra l'altro proprio in questo momento stiamo andando a Calais, dove cercheremo di giocare una partita all'interno del campo profughi, tristemente famoso campo profughi. Certo, è facile giocare a calcio, basta veramente un pallone, basta un posto all'aperto e questa cosa si può fare. Si sta un po' perdendo la possibilità di socializzare, di stare insieme, di divertirsi con questa facilità. Il calcio è, ai nostri occhi è in questo momento gli europei, gli hooligans che fanno a botte gli inglesi e i russi in Francia. C'è una spiegazione per il fatto che il calcio può essere sia quello che fate voi, cioè superare le differenze, darsi una mano, divertirsi in modo semplice, sia devastazione e tifo violento come quello degli hooligans? C'è una spiegazione, secondo te? Non lo so, penso che la spiegazione sia appunto che il calcio è prima di tutto una passione e alcuni magari la vivono in modo sbagliato, la vivono in modo sbagliato fino a sbocciare. Sarebbe, mi viene in mente, sarebbe quasi da dire: prendetevi gli hooligans, fateli giocare nel vostro europeo alternativo insieme a tutte le persone con questo, e almeno si sfogherebbero in quel modo lì anziché andare a devastare mezza Francia. Complimenti, c'è un prossimo appuntamento che vuoi lanciare, Enrico, di questi altri europei? Sì, adesso in questi due giorni appunto giocheremo a Calais, e potete seguirci sul nostro blog che è altrieuropei.org, sì, o sulla nostra pagina Facebook di The Small Now Onlus. Benissimo. Potete vedere tutte le tappe e seguire le future, seguirci. Grazie, grazie mille per essere stato con noi. Buona domenica a te, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Siamo in chiusura, è tutto per Si Può Fare. Ci risentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Paolo Corleoni in regia oggi. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona domenica.